Intanto qualche notizia ulteriore. Ringrazio Monica di come ha presentato la cosa. Questo un po' per far capire che non siete da soli in questo cammino. I saluti principali che vi portiamo sono quelli del Superiore Generale, no? Fra Paolo Crivelli, il quale, per quanto riguarda i gruppi laicali, lui è l'assistente spirituale dei gruppi laicali, ma delega all'interno del consiglio un consigliere per ogni gruppo. Allora, io sono il consigliere delegato da Fra Paolo per coordinare, comunque per riferire al Superiore Generale come si muove e si sviluppa il gruppo degli Oblati. Coordinatori veri e propri in termini pratici sono i quattro che ha elencato sorella Monica: una referente che è sorella Tiziana Fruttarol, che conoscete, Fra Giuseppe Spagnolo, e poi due laici che hanno un ruolo importante all'interno di questa organizzazione, e sono Ugo Morselli e Nicola Di Matteo, che oggi avete conosciuto. Quindi vi invito anche, quando avete delle difficoltà, a comunicare non soltanto ai vostri referenti locali, che sono la sorella Monica Redivo, Fra Enzo Tortella, e sorella Monica Bolzoni, che coordina un po' a livello locale, ma ecco, di rivolgervi direttamente, per esempio, a Fra Nicola, scusami Carmela, chiedo perdono alla moglie, a Nicola Di Matteo o agli altri membri del comitato nazionale, e in modo tale che vi possano rispondere, possano dare delle indicazioni, o comunque possano portare anche in consiglio direttivo della fraternità eventuali vostre istanze. Ok? Questa è un po' l'organizzazione. Quindi c'è un'organizzazione, non siete soli, non siete abbandonati, non andate per i fatti vostri, no? Siete all'interno di un progetto che per noi organizzatori, no? Referenti, sia a livello nazionale che a livello locale, è un progetto abbastanza chiaro e che segue le indicazioni e le ispirazioni di Padre Pancrazio. Voi siete degli oblati, cioè persone che siano offerte al Signore, si sono donate al Signore. L'oblazione è questo. In latino oblatum significa offerto. Offerto vuol dire che io ho piena consapevolezza, coscienza, che mi sto offrendo al Signore, il quale mi utilizzerà per qualcosa. È chiaro che questo è una chiamata. Non è che io mi alzo al mattino e divento oblato. A seguito di una chiamata del Signore, di una lettura dei segni che il Signore vi manda, rispondete a questa chiamata con una vostra offerta di vita. Una vita che si dispiega, si declina in un certo modo, secondo il carisma della Fraternità Francescana di Betania. E qui entro subito nel vivo degli esercizi, è in questa maniera che diventiamo servi dello Spirito in maniera privilegiata, direi. Servi dello Spirito. La prima caratteristica dei servi dello Spirito è riconoscere la voce di Cristo, la voce di Gesù. Servi dello Spirito dove? Là dove il Signore mi ha messo, in famiglia, sul lavoro, in politica, nella sanità, negli enti pubblici, dovunque il Signore mi pone, io sono servo dello Spirito. In che modo? con la preghiera, con l'accoglienza speciale, con una vita fraterna, cioè una vita che resta collegata con altri che vivono questa esperienza. Questa triplice caratteristica è quella che il Signore ha ispirato a Padre Pancrazio prendendo dal Vangelo alcuni, prendendo dalla vita di Gesù alcuni suoi aspetti, alcuni suoi stili di vita. Anche Gesù pregava? Sì. Anche Gesù viveva un'accoglienza speciale? Sì. Anche Gesù viveva una vita fraterna? Sì. Ha chiamato 12 apostoli innanzitutto per vivere con lui. Ok? Quindi servi dello Spirito. Già da questo momento noi vogliamo essere servi dello Spirito. C'è un testo molto bello della lettera di Giacomo al capitolo 3. Dice così: chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrestre, materiale, diabolica. Perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Quanto è attuale, no? Anche questo testo. Quello che ci chiede il Signore è di essere persone sagge e intelligenti, quindi che usano la testa, ma usano anche il cuore. Sono capaci di coniugare la verità che la testa riconosce con il bene che il cuore insegue. Verità e carità vanno sempre insieme. San Paolo nella lettera agli Efesini lo ribadirà proprio. Verità e amore devono stare insieme. Non può esistere l'uno senza l'altro. Se io vivo solo di verità, divento a un certo punto rigido e ideologico, perché mi manca il voler bene. Se uso solo la carità senza la verità, non conduco le persone nella conoscenza di Gesù, perché Gesù è anche verità. Divento uno spiritualista, un fideista, uno che non ha i piedi concreti, non ha i piedi per terra. Verità e carità e amore sempre insieme. Questo è sapienza che arriva dall'alto. Questa sapienza è pacifica, è piena di misericordia. Dunque, già da qui comprendiamo dove sto andando a parare. È interessante quello che ci dirà domani mattina Nicola, e cioè il fatto che siamo messi di fronte a un bivio: scegliamo Gesù o scegliamo il mondo? Vogliamo essere innamorati di Gesù o vogliamo essere innamorati delle logiche del mondo? Quali sono queste logiche del mondo? Ve lo anticipo oggi io. La prima logica, la logica forse più diffusa oggi, è la logica del sospetto. Oggi si sospetta di tutto e di tutti. Il governo ci sta ingannando. Il Papa ci sta ingannando. Il vicino di casa ci sta ingannando. Il direttore sanitario ci sta ingannando. I vaccini ci stanno ingannando. La scuola ci stanno ingannando. In ogni settore, in ogni problematica, se volete, che siamo chiamati ad affrontare giorno per giorno, noi vediamo spessissimo un inganno e siamo sospettosi delle persone perché ci stanno ingannando su qualcosa. Questa non è la logica del Vangelo, che io debba affrontare queste tematiche con raziocinio, cercando di valutare dove c'è il bene e dove c'è il male, dove c'è la verità e dove c'è la menzogna. Questa è una cosa, ma che io abbia un atteggiamento che non è né pacifico né pieno di misericordia né mite, questo è contrario alla logica dello spirito. Capite che questa è una trappola oggi non solo attualissima. Quasi noi sospettiamo della moglie e del marito anche quando non fanno nulla, eh? Cioè siamo entrati ormai nella logica dell'assolutizzazione della mia coscienza e della mia opinione. Ma può un oblato vivere così? Questo è il grande dilemma, un dilemma concreto. In questo momento l'intensità delle emozioni è particolarmente determinante nei comportamenti. Ciascuno si ritiene criterio del bene e del male, del diritto e del torto. Oggi non ha più senso leggere il Magistero della Chiesa. Cos'è il Magistero della Chiesa? È la raccolta di tutti i documenti che la Chiesa ha prodotto in 2000 anni. Ora, le tematiche che emergono oggi, che sembrano la novità assoluta, in realtà sono acqua calda. Perché già 2000 anni fa tutte queste problematiche di oggi, più o meno, erano state affrontate. In 2000 anni c'è una riflessione dei pontefici, dei vari sinodi e concili ecumenici che hanno già affrontato certe tematiche e che ci conducono verso una verità evangelica. Ma è stato Gesù a volere questo. Gesù ha scelto il primo Papa. Ha scelto un Papa, cioè ha scelto una persona che coordinasse. Ha scelto 12 vescovi. Ha scelto persone che facessero da mediazione tra lui e l'uomo. Ha scelto comunità che trasmettessero i suoi insegnamenti. Ed è molto pericoloso, togliersi da questa logica, perché è un attimo sposare la logica del mondo. Questa è la logica dello spirito. Qualche volta noi ci dà fastidio ormai questa cosa, ci dà fastidio di dover obbedire a un documento della Chiesa, ci dà fastidio manifestare un religioso ossequio a un documento sull'eutanasia. No, perché per me è giusto invece che... O sull'aborto. Tutte le polemiche adesso che sono scaturite da quello che è stato il provvedimento molto, tra l'altro, molto semplice di trasferire. Non è che hanno tolto l'aborto, hanno semplicemente trasferito in America la il giudizio sull'aborto da quello che era un giudizio di tipo federale a un giudizio di tipo locale, o viceversa, adesso non ricordo. Quindi, eppure grande polemica, perché? Perché l'uomo vuole essere libero da ogni parametro che lo leghi al Vangelo. Per noi il parametro principale che ci lega al Vangelo è la Sacra Scrittura in generale, cioè tutta la scrittura che si lega al Vangelo, perché tutta la scrittura in qualche modo è in funzione dei Vangeli. Due, i padri della Chiesa. Tre, quindi la patristica. Tre, il magistero, cioè quello che dicono ufficialmente e solennemente i papi, o quello che dicono i concili e i sinodi. È lì che noi attingiamo, che cosa? Non la fonte, ma l'applicazione della fonte che resta il Vangelo, l'applicazione alla vita quotidiana. Oggi, e lo sperimentiamo un po' tutti, chi presta un servizio pubblico alla comunità deve confrontarsi con la gente e viene messo alla prova continuamente dalle persone che aspettano, dalle persone che chiedono, dalle persone che hanno fretta. Ci vogliono molta pazienza, capacità di relazione, predisposizione all'empatia, alla comprensione, autocontrollo nelle reazioni. Coloro che prestano un pubblico servizio constatano ogni giorno che ci sono molte persone che vivono le loro legittime aspettative con atteggiamenti di pretesa arrogante. La pretesa non è il far valere i propri diritti, ma è mancare di comprensione nei confronti degli operatori e delle regole che essi devono rispettare. Esigere di essere serviti, ascoltati, come se si fosse soli al mondo. Insinuare una malizia, una colpevole disattenzione, là dove il servizio non è prestato secondo le proprie aspettative. Oh, i medici li sbraniamo, quando andiamo da un medico e non è disponibile, no subito, ma ieri, lo massacriamo. Quando andiamo in un ufficio pubblico, siamo arroganti. Siamo a mancare di rispetto nelle file, nelle code. Proprio l'altro giorno sono andato a ritirare l'esito, no, di alcuni prelievi che ho fatto, di esami del sangue, e io aspettavo da tre quarti d'ora. Molto semplicemente è arrivato un signore, appena arrivato è entrato, come se niente fosse. Allora, questa è la cultura del mondo. Sono molto concreto in questi esercizi, saremo molto concreti in questi esercizi, cioè andremo a vedere ma che cosa ci distingue come Fraternità Francescana di Betania, ma cosa ci distingue, siamo capaci di stare pazientemente sotto la croce, siamo capaci di dare un segnale di mitezza, di bontà in una fila alla posta, anziché agitarci noi per primi rispetto a tutti gli altri. Questo fa la differenza tra un oblato e uno che non lo è, tra un cristiano e uno che non lo è, ma a maggior ragione un oblato. Allora io alla fine, ma che cosa offro al Signore se sono un oblato tale quale un pagano? Questa è la grande provocazione della cultura postmoderna. Una cultura che esalta l'emozione, lo slogan gridato, stuzzica la suscettibilità, deprime il pensiero riflessivo. Oggi non ti è permesso di pensare, di dire scusami, un attimo, ci devo riflettere su questa cosa, perché immediatamente vieni aggredito. Il comportamento di fronte a uno sportello è solo il sintomo di una sensibilità che si è ammalata di suscettibilità, di un pregiudiziale atteggiamento di discredito verso le istituzioni, in particolare verso i servizi pubblici più vicini ai cittadini, che si tratti dell'ambito scolastico, di quello sanitario, di quello tributario o di quello dei trasporti, dell'ecologia urbana, di qualsiasi altro. Con ciò non significa che io voglio mortificare il valore degli affetti, dei sentimenti, delle emozioni. No, sono parte costitutiva dell'esperienza umana e delle relazioni. Chi non prova emozioni nelle relazioni? Quello che voglio e desidero evidenziare è il rischio di lasciarsi dominare da certe reazioni emotive, di farle valere come se fossero delle vere e proprie ragioni su cui fondare le nostre scelte e avanzare rivendicazioni. Questa confusione tra ragioni ed emozioni spesso complica gravemente la convivenza civile. Veniamo al dibattito pubblico. Nel confronto tra le parti, nella campagna elettorale, abbiamo sentito, ma nei molti programmi televisivi di politica, il linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive. Un giornalista amico mi ha detto: quando c'è la pausa pubblicità, prima si sono ammazzati di parolacce, nella pausa pubblicitaria si vanno a prendere il caffè, stanno insieme, ridono, scherzano, eccetera, eccetera. Cioè, questo. E la gente non capisce questa cosa. Una striscia alla notizia che distrugge le persone, mette in vetrina qualunque cosa senza nessun rispetto. Non è più un giornalismo finalizzato a cercare la verità. È un giornalismo finalizzato a ottenere audience, distruggendo la dignità, la buona fama delle persone. E noi diventiamo complici se ci lasciamo coinvolgere da queste cose. Credo che il consenso costruito con un'eccessiva stimolazione dell'emotività, dove si ingigantiscono paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, non giovi al bene dei cittadini, non favorisca la partecipazione democratica. La partecipazione democratica, la corresponsabilità per il bene comune, crescono, a me sembra, se si condividono pensieri e non solo emozioni, informazioni obiettive e non solo titoli a effetto, confronti su dati e programmi e non solo insulti e insinuazioni. Non si può fare politica insinuando sempre e soltanto insinuando. Ma che politica è? Politica vuol dire che io mi occupo del bene comune e costruisco quindi delle proposte. Una volta c'erano uomini politici che si meritavano l'ammirazione della gente, perché costruivano, cercavano di costruire, puntavano a far emergere un pensiero. Adesso quello che conta è l'indice di gradimento. Quindi se dico quella cosa e vado a vedere poi lo share, cioè vado a vedere che quella cosa ha ottenuto una percentuale alta di visite nel sito piuttosto che non so dove, o nel blog, eccetera, ecco che io continuerò a dirlo anche se è male. Chiaro? Ora, qui ci giochiamo il nostro essere oblati dentro queste cose, che sono cose molto molto pratiche, concrete e all'ordine del giorno. Occorre quindi riscoprire la cultura e il pensiero che aprono alla fiducia, alla reciproca relazione. Se io non ho fiducia in nessuno, ma come faccio a costruire una relazione? E cosa insegnerò ai miei figli? Insegnerò appunto la logica del sospetto. Io ho conosciuto persone che hanno puntato tutto sulla educazione dei figli fatta in questi termini. Stai attento perché comunque gli altri ti fregano. Perché nel momento in cui l'ho vista, l'ho biasimata all'epoca, non sono stato ascoltato, tra l'altro proprio all'interno della la mia cerchia familiare. A un certo punto, quando i figli sono diventati grandi, sapete nei confronti di chi è stata rivolta la prima sfiducia? Nei confronti dei genitori, i quali sono stati delegittimati immediatamente della loro autorità. Perché? Perché hai educato così? Tu mi stai nascondendo qualcosa perché non vuoi dividere l'eredità. Questi sono i fatti concreti. tu come ti muovi, caro oblato, cara oblata, dentro questo mondo, dentro questa proposta formativa, tra virgolette? Questo propone la nostra società e pensa di proporre un qualcosa di formativo. Certo, non ci aiuta la complicazione della normativa, delle pratiche burocratiche, delle procedure. È chiaro che è tutto complicato. La tendenza a evitare di prendersi responsabilità da parte dei singoli operatori è sotto l'occhio di tutti. Anche un infermiere oggi non si prende più neanche una responsabilità. Spesso capita, ahimè. L'operatore si ripara dietro il controllo degli adempimenti formali e pretende estenuanti forme di garanzia, intimorito dalle possibili conseguenze legali dei propri atti. Pensate a una pratica sanitaria per andare ad accertare la verità di una malattia piuttosto che di una morte, no? A seguito di comportamenti. Quella non approda mai a nulla, perché non c'è una vera ricerca della verità. Quindi, se da una parte c'è questa logica del sospetto che distrugge la relazione, dall'altra c'è una continua deresponsabilizzazione di fronte ai propri atti. C'è un testo molto bello che vi vado a leggere, della prima lettera ai Tessalonicesi, che dice così. È proprio uno sguardo che ci è chiesto, che è uno sguardo diverso a noi cristiani, ma a noi anche oblati. 1 Tessalonicesi 5, 15 e seguenti. 1 Tessalonicesi 5, 15 e seguenti. Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questo è l'oblato, uno che di fronte alle situazioni anche avverse ha quella capacità, alla sera, magari in camera propria, da solo, di dire: io, Signore, ti ringrazio, nonostante tutto. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Aggiunge San Paolo: non spegnete lo Spirito. Perché lo Spirito, servi dello Spirito, significa questo. In ogni cosa, e questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù, in ogni cosa rendete grazie. Gesù Cristo è andato in croce, a finire in croce, e ha offerto il suo corpo, ok? Eucaristia cosa significa? In greco, eucaristia significa rendimento di grazie, cioè Gesù ringrazia il Padre per essere andato in croce a salvare l'umanità. Tale era la sete per le anime che lui ringrazia di essere stato offerto, oblato, al posto di tutti quanti, gli uomini e le donne del mondo, di tutti i tempi, di tutti i luoghi. L'Eucaristia è questo rendimento di grazie. Noi quando la celebriamo, celebriamo innanzitutto il rendimento di grazie di Gesù al Padre, e infatti lo offriamo in una glorificazione nella dossologia maggiore, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente. Quella gloria che imploriamo è la gloria del Figlio che, donatosi completamente al Padre, salva l'umanità. Pensate che atto enorme che è la Santa Messa. Padre Pio riconosceva in questo la grandezza della Messa. Era in agonia anche lui insieme con Gesù. Anche lui viveva il sacrificio, ma anche lui rendeva grazie al Padre per il disegno di salvezza su tutta l'umanità. Allora, ecco la domanda importante. In te, caro Blato, caro Blata, si riconosce questa logica? In te si riconosce che sei un servo, una serva dello Spirito? Ancora insisto su questo punto. La riscoperta e la valorizzazione del bene comune, quindi non solo dei beni privati e di quelli pubblici, non solo dei beni comuni, ma dei beni privati e di quelli pubblici, quindi di tutti i beni, può favorire la rigenerazione della cittadinanza come vivibilità e appartenenza civile. I tre aspetti che abbiamo ricordato, le pretese indiscutibili, il consenso emotivo, le procedure esasperanti, sono buone motivazioni per formulare il desiderio di una ragionevolezza diffusa e abbandonare la logica del sospetto. Essere persone ragionevoli è un contributo indispensabile per il bene comune. Vincere questi tre aspetti che impediscono una partecipazione attiva al bene comune, questo è cristiano, questo è evangelico, questo è da oblati. Evocare la solidarietà e fraternità della condivisione relazionale. Paroloni. Quello che cerchiamo è questo, che dice Paolo VI. Aprite le vie che conducono a una vita più fraterna in una comunità umana veramente universale. Questo è la profezia di Padre Pancrazio. Creare comunità, fraternità, che vivano e superino le tre indicazioni che vi ho dato, quella logica del sospetto, e che vivano una vita fraterna, una vita di relazioni. Certo, il primo impegno mio è quando sono in fila al supermercato. Cioè, è inutile che vado cercando la fraternità, quella dei massimi sistemi. Innanzitutto la fraternità è come io vivo la coda al supermercato. È lì che si distingue una persona. E quando parlo con l'insegnante di mio figlio, di mia figlia, e non vado per aggredirlo, ma vado per ascoltare. Che cosa c'è che non va in mio figlio e mia figlia? Cos'è che c'è va bene? Che cosa va bene e che cosa va male? Magari aiutando anche l'insegnante a dire, mi dica anche qualcosa di bello di mio figlio o di mia figlia. È un'educazione, è una costruzione di una relazione, di una fraternità, di una umanizzazione dell'ambiente scolastico. Capite? Umanizzare il posto di lavoro. Ma io quando vado e dentro un posto di lavoro e comincio a sentire che quello parla male di me, che io a mia volta comincio a parlare male di quello, e quell'altro a sua volta parla male del capo, il capo a sua volta parla male di tutti i dipendenti, non ce n'è, tutti i somari, e poi capite che io lì sono tiepido, mi adeguo a una logica. Se il sale perdesse il sapore, che cosa, chi potrebbe renderlo salato? Dice Gesù. Se una luce, che è pensata per fare luce, viene messa sotto, no, il moggio e non sopra il lucerniere, se una città da lontano non fa luce, a cosa serve quella città? Se non a incrementare una logica che non è del Vangelo? Ecco l'impegno degli oblati. Capite che allora gli oblati non sono un'invenzione dell'uomo, sono un'invenzione di Gesù per restituire luce negli ambienti in cui luce non c'è. La creatura umana, dice Benedetto XVI, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive, più matura anche la propria identità personale. Non è isolandosi che l'uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio. Il rapporto tra persona e comunità è di un tutto verso un tutto, verso un altro tutto. Pensate, il valore della persona, che è un tutto, e il valore di una comunità, che è un tutto, si incontrano perché un tutto dà senso all'altro tutto. È chiaro, allora, un oblato si occupa delle aspirazioni di tutti, solidarizza con tutti, vede le esigenze di tutti, soprattutto di colui che non riesce a esprimere le sue esigenze. Ecco il Papa che richiama a un'attenzione ai poveri. Il Papa, con tutta la sua, con tutto il suo magistero pontificio, ci sta portando a combattere che cosa? Due cose: l'individualismo, ognuno pensi per sé, e il relativismo. Io ho ragione, non c'è bisogno di ascoltare nessuno, io ascolto me. Ma può una società fondarsi su questo? Ecco la fraternità francescana di Betania. Si chiama fraternità perché l'ha messo al primo posto. C'è tutta una sua logica anche in questo. Fraternità. Perché fraternità all'inizio? È perché la profezia è quella. In una società dove manca tutto questo, fraternità è la parola chiave. E il Papa rilancia, perché il Papa è venuto dopo Padre Pancrazio, diciamo in ordine cronologico, ma la logica è quella del Vangelo. Cioè nessuno è, cioè nessuno inventa niente, e l'ha inventato già Gesù. Il Papa propone la fratelli tutti, che a noi ci manda in tilt perché dice: ah, fratelli tutti, dobbiamo dialogare anche con l'Islam. È dura, ma nel momento in cui tu sei forte della tua personalità, nel momento in cui tu sei forte della tua identità di persona in cammino che sa amare, tu non hai paura di una differenza, di una diversità. Tu la affronti in un dialogo interpersonale, dove ognuno probabilmente mantiene la propria tradizione e le proprie radici, ma nello stesso tempo costruisce un ponte. Il bisogno di entrare dentro nell'altro e capire che cosa sta pensando e testimoniare quello che io sto pensando. È la costruzione di una civitas, una visione del bene, una responsabilità di scegliere non quello che piace a me, ma di scegliere ciò che piace a noi. E questo è tanto difficile. Noi oggi siamo invitati a deresponsabilizzarci. Pensate soltanto a un WhatsApp. Io da come rispondo, da quando rispondo e da cosa rispondo in un WhatsApp, sto dicendo che cosa penso a proposito della fraternità, della civitas. Se rispondo immediatamente, non sto facendo altro che appoggiare la logica del tutto e subito, la logica della frenesia, la logica del corri-corri, la logica dell'urgenza. Sto appoggiando la logica del criceto che sale sulla ruotina e comincia a correre, ma sta sempre lì. Gira, gira, gira, sta sempre lì. Possibile che io mi mando un WhatsApp, devo risponderti immediatamente, se no tu ti offendi e mi chiudi il rapporto? Ma stiamo scherzando? Ma io devo combattere una logica di questo tipo, non è possibile accettarla. Con mitezza, ma lo devo fare. E il contenuto di quello che ti scrivo, devo pensarlo, perché io non scrivo delle cose buttate lì con l'emozione, ma scrivo delle cose che coinvolgono non soltanto la mia emotività, ma anche il mio raziocinio. Tutta la mia persona, in quella risposta ci potrebbe essere la chiave di lettura per l'altro, ci potrebbe essere l'incontro con Gesù. Io in quel momento, da oblato, divento missionario da quello che scrivo, da quello che comunico. Io vedo interminabili, no? Queste cose interminabili, quando magari i miei nipoti, come stai? Bene, ah, e tu? Ok, hai visto questa cosa? Cosa? Quel vestito? Sì. E tu? Io impazzisco dietro. Il tutto in quanto tempo? In un minuto. In un minuto c'è un papirozzo lungo così, dove non c'è scritto niente, dove non c'è comunicazione di nulla, dove io non sto trasmettendo una fraternità, una relazione, la volontà di superarmi, la volontà di aiutarlo là, di aiutare l'altro a vedere oltre. Affronteremo anche questo, no? Vedere qualcos'altro, non l'apparenza, ma vedere sotto, vedere o ascoltare una voce di Dio nelle cose. Quali risorse abbiamo a disposizione per raggiungere l'obiettivo di una civitas custodita e valorizzata? La famiglia è probabilmente oggi la risorsa determinante, è la cellula vivente. Può infatti tenere insieme le età della vita, la cura per il futuro, la pratica della solidarietà, la prossimità alle fragilità e rendere la città un luogo in cui sia desiderabile vivere, lavorare, studiare, diventare grandi, essere curati e assistiti. Ma io posso andare al lavoro e non vedere l'ora di tornare a casa? Posso vivere 5 giorni di frustrazione per potermi andare a sballare il venerdì sera, il sabato e la domenica? Non è possibile. Diceva un commentatore della Genesi, il settimo giorno Dio si riposa, ok? È lo Shabbat, no? È il giorno del riposo, ma non è solo il giorno del riposo, è il giorno in cui Dio si volge indietro e benedice tutto quello che ha fatto. Se ogni sera dice è cosa buona, è cosa buona, è cosa buona, arriva a creare l'uomo e dice è cosa molto buona, quello è raggiungere il momento più bello della settimana e dire ho speso bene il mio tempo. Benedico tutto quello che ho fatto. Chi invece non vede l'ora di arrivare alla sabato, alla domenica, per fare lo straordinario, significa che tutta la settimana ha vissuto fuggendo dalla vita. Qui entra l'oblato, qui l'oblato si accorge che nel suo collega di lavoro c'è qualcosa che non va. Qui l'oblato può iniziare a intercedere. Iniziare a intercedere con la preghiera. Qui l'oblato può iniziare ad amare, a voler bene. Qui l'oblato può iniziare a dire qualche verità. Sono i passaggi, ci devono essere tutti, eh? Non posso arrivare a fare il predicatore senza che prima non mi sono messo ad amare, che prima non mi sono accorto di quello che sta accadendo e ho cominciato a pregare per quella situazione. Secondo aspetto, andiamo avanti, sennò ci perdiamo. La comunità cristiana, nelle sue articolazioni territoriali, nella sua organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collaborare con tutte le istituzioni presenti nel comprendere il territorio. Se io, oblato, sto dentro in una parrocchia e faccio il servizio di consiglio pastorale, per esempio, i nostri oblati magari che fossero dentro dappertutto, consigli pastorali, corsi prematrimoniali, corsi per gli sposati, adorazioni eucaristiche, quindi servizio liturgico. Lì dentro io mi devo sempre interrogare su questo aspetto. Sto costruendo la città di Dio? O sto incrementando anch'io la logica del sospetto nei confronti del parroco, perché il parroco è uscito quella sera, è andato a trovare quella donna, chissà, forse è andato... Ma tu da che parte stai? Ma tu non puoi vivere costantemente mettendo in luce i problemi, i difetti, le ipotesi che ti saltano per la testa del comportamento di un altro. Ma che ne sai? E quelli diventano facilmente giudizi temerari. Il giudizio temerario è il giudizio senza prove. Ma non fai altro che incrementare questa logica del sospetto. Non stai costruendo nulla, stai demolendo. Ma questo è importante capirlo. Non possiamo continuare a vivere come se niente fosse, come se questo non fosse un problema. È un problema. È un problema per me che ho una coscienza evangelica. Sempre vedere il male anche là dove non c'è. Ma comunque, no, diceva, chi era Andreotti che diceva, pace all'anima sua, diceva, a pensare male, dunque, a pensare male... Si fa peccato. Ma ci si azzecca sempre. Ma questa è proprio una frase anti-evangelica al massimo. Dopo hanno cominciato a pensare male di lui, chiaramente, perché è una ruota, o prima o poi no, ti ritrovi infilato dentro. Non è il Vangelo, questo non è il Vangelo, non è quello che abbiamo letto, pensare male per il male, sempre pensare male dell'altro, la mormorazione, no, non è il Vangelo, non è il Vangelo, dobbiamo dircelo. L'oblato lavora in modo diverso. Magari passa per tontarello, dice, ma che sono il più fesso di tutti? Ma ben venga che sei il più fesso di tutti in una società fatta di lupi. Cioè non posso sempre pensare male, sempre pensare male, ma io divento acido, mi porto con me una visione della vita, proprio una vision, no? Così come si intende oggi, una vision, un modo di intendere, un Weltanschauung, dicono i tedeschi, un modo di intendere le cose pregno di sospetto, di acidità, di mancanza di speranza, quindi di disperazione e di proposta di ansie. Cioè io fomento e alimento l'ansia della gente. Non c'è la speranza, manca la speranza. Anche la fraternità è chiamata attraverso le sue componenti a dare forma ad una vision diversa. Gli stessi oblati ne sono tra i laici il cuore pulsante. Tra i laici gli oblati sono il cuore pulsante, coloro che hanno risposto a una chiamata per offrire la loro vita. Cosa vuol dire spendere la vita per il Signore? Vuol dire spendere la vita per queste cose che vi sto elencando. Che cosa fai per i tuoi familiari? Per l'entourage della tua gens, della tua famiglia, della tua cerchia, non solo di amici, ma proprio di familiari, di sangue, uniti da una stessa genealogia. Che cosa fai? Anche tu non parli più con quello, gli hai messo una croce sopra. Cioè, mi ricordo sempre la confessione di un tizio che non c'è stato verso di fargli capire che forse c'era qualcosa che non andava. Dice, padre, ma io non ce l'ho con nessuno. Se uno mi crea problemi, lo evito. E sono buono anch'io, gli ho detto. Lo facciamo tutti e ci evitiamo completamente tutti quanti. Ma se il Vangelo ti arriva a proporre nel capitolo 5 di Matteo, amate i vostri nemici, se salutate quelli che vi salutano, ma che merito ne avete? Arrivati a questa stregua, il Vangelo diventa provocatore di una mentalità completamente diversa. Capite allora la logica della carne e la logica dello spirito. Ecco San Paolo che poi esce fuori con questa dicotomia, cioè con questa proposta, di valutare bene, di discernere bene se sei nel registro dello spirito o se sei nel registro della carne. Sono parole, caratteristiche del linguaggio paolino, ma poi alla fine il concetto è sempre questo, no? Che logica stai sposando? Gli oblati sono chiamati a offrire tempo e preparazione umano-spirituale nello stile della fraternità, per formare altri laici e per raggiungere gli spazi della società più lontani da Dio e dal suo amore. Ma che compito che avete? Raggiungere gli spazi della società più lontani da Dio e dal suo amore. Magari vivendo questa chiesa in uscita là nel vostro posto di lavoro, quindi nell'accoglienza interna anche voi, cioè le persone che vi vengono a visitare, che tipo di ambiente accogliente trovano? Leggiamo un attimo quello che ci aspetta, no? In anticipo su quello che vedremo i giorni prossimi. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 2. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. A noi è chiesto di vedere e di ascoltare cose che solo lo Spirito ti possono suggerire. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Lì ci aspetta il Signore, dentro nelle profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. Sta dicendo, ci sono cose che solo lo Spirito comprende e chi vive servo dello Spirito può comprenderle. Chi non vive servo dello Spirito non le comprende. Ma noi non ci dobbiamo lasciare scoraggiare da questa incapacità di vedere con gli occhi dello Spirito cose che gli altri non vedono perché non hanno lo Spirito. Faccio un esempio molto semplice, no? Quando sei in un tribunale, urla, grida le tue ragioni, difenditi. Anche utilizzando i mezzi più biechi, perché il fine giustifica i mezzi. La logica dello spirito non è questa. Quando Gesù in tribunale, davanti al sommo sacerdote, parla di ciò che lui ha fatto, e di ciò che lui è stato in tutta la sua vita. Ho predicato davanti a tutti e non mi avete ascoltato, ho predicato, annunciato, perché adesso venite a chiedermi cose che ho già annunciato pubblicamente. Il soldato lo percuote. E lui che cosa risponde? Se ho detto bene, se ho detto male, dimmi dove ho sbagliato, ma se ho detto bene, perché mi percuoti? Non utilizza tutti i secondi fini, terzi fini, quarti fini pur di avere ragione per riuscire a raggiungere l'obiettivo che è quello di salvarsi la vita e di. Oh, capisco che è una sfida questa, è un processo. Noi oggi cerchiamo di comprendere queste cose, domani magari riusciamo anche a viverle. Ma la direzione di marcia dobbiamo averla certa, non possiamo lasciarci confondere su ciò che non è buono. Ai nostri figli non possiamo insegnare la logica della competizione, e lo facciamo sempre. Cosa ha preso il tuo compagno di classe? Ha preso 9. E perché tu hai preso soltanto 7,5? Che cavolo, perché quel giorno lì c'era un mal di testa, non so, cioè, vuol dire, in quella maniera noi non facciamo altro che insinuare la logica della competizione. Facciamo del bene al nostro figlio? Facciamo del bene all'altro ragazzo? Stiamo costruendo un mondo di fraternità? No, stiamo costruendo un mondo dove ognuno, homo, homini, lupus, ognuno deve essere lupo per l'altro, cioè arraffa finché puoi arraffare, vivi per te stesso, cerca di raggiungere il posto che ti sei prefissato. Se poi con una gomitata allo stomaco o ai reni devi sbarazzarti di quello che sta concorrendo con te, fallo. E questo non è dello spirito, questo è lo spirito del mondo, non è lo spirito di Dio. Ecco, io mi fermo qua, già ho sforato un po', e direi è un primo passo per entrare, no, in questi esercizi spirituali, ma per far capire che anche le parole del Vangelo vanno declinate nella vita, in mille esempi che ci possiamo dare. Ognuno sa come vive e come invece potrebbe vivere, e può e sa come poter annunciare una mentalità, uno stile che è diverso, che è lo stile della fraternità. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.